invece la torre dell'antenna, quando piove non vede niente. Dopo due giorni che non piove, il sensore si vede bene, torna a piovere e torna incasinato. Ero già un installatore anch'io d'antenne, quindi lo so. Io quando penso l'antenna, metto il silicone oppure metto il nastro vulcanizzante e il misuratore non entra niente, rimane sempre nuovo. È strano però. Perché molte antenne sulle piazze, per il coperchio ben ermetico, non succede niente. Ho un misuratore un po' così. A tu andare nel tempo, giustamente, se tu le fai questi accorgimenti all'antenna, e invece andare a casino, che dopo tantissimo, tanti anni, l'acqua penetra e si mette tutto ruggiroso dentro. E non fa più contatto né la calza e niente. Lo so come funziona. Un po' di porchi pure rubino me, come se già praticassi, non devi più. Avanti da me. E alla me, la tesi di luce fai di prima. Grazie di tutte le cartelle a casa, vedi che d'acqua. A me mi è successo da poco. Da poco ci ho dovuto buttare tutto il capo. Perché il miscelatore si è fatto a merda. Rifaccio il capo, vado a fare il capo dell'UHF, dell'antenna di su, tutto canto pratico, l'ho dovuto cambiare. Antenne buone si usano, antenne buone. Lo so che ci vogliono antenne buone, non era la mia, no. Ah, pensavo che era la tua. Che sono miscelatore, mi è rimasto in mano. In mano, cioè, come l'ho preso? Si è spezzato dentro. Guarda, fatto in una maniera così barbara che non ti dico. Infatti tipo quelli. Cioè, prendete quelli dell'antenna del SAT. Di così attaccati così, tutto che si pigliava Eva, ma per carità. Sono cercando la pagina. La pagina? La pagina dell'antenna. Ah, sì. Ma carità. Ma vabbè, quelli che mi ha venduto Fusaro, quelli della Sud Antenne si chiama, quei miscelatori lì, sono a cannonata, non piglia né ruggine, ne ho uno, ne avevo una a casa di babbo, l'avevo smontato per vedere così, ancora nuovi i contatti dentro, perché hanno un bel rivestimento dentro. Tutti i miscelatori, ricordatelo, anche l'antenna del primo, UHF, hanno un piccolo dipolo. Con il dipolo c'è una scatoletta, se tu la apri, se non gli fai nessun accorgimento con la scatoletta, andare nel tempo, se non viene a far culo, capito? Il miscelatore INE è una scatola che apre e chiudi, però se vuoi fare accorgimento, quello lì dopo tanti anni l'acqua che entra diventa ruggiroso e non fa più contatto il cavo. Le installavo anch'io nel tempo fa, quindi lo so. Già lo so anche io già cosa succede. Sì, è così. E poi quando sono di roba di scarsa qualità diventa ancora peggio, diventa. Manuel, sta aggiornando un attimo il computer, che adesso facciano fare tutti gli aggiornamenti. Ma l'aggiornamento lo fa da solo, mica lo devo aggiornare tu. No, stai guardando altre robe. È tutto automatico, tu mi sai fare aggiornamento o fare aggiornamento? Ma se facciano qualche altra roba, capito? Tu guarda il tuo gabinetto. Sì, si chiama casina. Unio Paniveglia! Nulla, sono tutto il giorno in casa, non sono uscito per niente. A domani ho dato la gabbia. Domani, e da lui Marco dice dove è in fede, fissa a Lando, alla Cronese. Una di su, ma cosa so? Già mando un messaggio al mio collega, che lavora con me, a tu io domani non rientro, rientro giovedì, è per delle curve. Unio Paniveglia! Andare. Dice che Torino squadra squadra. Faccio un bucio, la stavanti ha scelto sul tetto, anche se è un po' bagnato. Una pomata mi hanno dato per le stazionali, adesso prima c'avevo un 7-1-8, adesso 1-3. Ma tu dici che è già meglio? No, ma che pomata mi hai dato? Ma cosa gli si trova pomata per le stazionali? Ma figli venire a Luca. Oh, mi ha dato il mio bombolo, mi ha data. Chi? Ha dato il mio bombolo. Allora già ci credo. Già ci credo. La data è stata pomata, ma spesso c'è la mezz'ora. A me una volta mi ha detto di tutti i gurori, tutti i gurori. C'è stata mamma, cosa cazzo che non mi ha detto? Ci ha contato di persona, ma con tutti gli uccidono la bocca. E adesso comunque non c'è più e ci manca l'attento. Tony, la passa un po', sei troppo alto, cazzo. Certo, tu sei più alto uno, ma io sono più alto di te con la radio. No, bene così. Ha seccato a uno capitano in Chivo e a Lattidotti, ha seccato in via Volte con tre, già con i cittadini vuoi care a Danilo la CFM. Perché stai approfittando a chiedere la prossima tu glielo dicevi brutta bestia o sono io? No, Piero Drago glielo diceva. Piero Drago ha detto che appena va in pensione se lo attacca. E ti viene una ciò che pare con Zegna Kawasaki, eh? Questo è un paraguga. Disse qua, ma la zona te ne ha combinato. Allora un giorno ci è invitato, venite lì a... di fronte a cosa adesso, come si chiama il bar, va a Napoli, vabbè. Qua di fronte che a Taltani, te la diciamo, per andare a Canica lì. Siamo andati un bel po', eravamo boh, 10 persone, Roberto Bandito, Silvia, se non mi ricordo mai c'era anche Marcello, Marco, Deida, in un po' di persone. Praticamente ci volevo offrire lui con, diciamo, 2000 lire mi sa, bene a tutti. Ma ti cazzo qua a fare la bimisima in 20, in 3, in 20, o 20 no, 15 anni. E voi l'avete approfittato, e siete andati in greppa, chi dormiva di là? Poi vedi, questi 2000 bracchi o 3000 o 5000 bracchi, non mi ricordo, comunque non ci vanno, bastavano assolutamente. Ce li ha regalati a me o a me o a un altro tipo, là. Manuele. Come? No, a Manuele, cioè, Manuele. Io il catalogo ce l'ho, però l'antenna del camper che tu mi hai detto, non quello che ne è. Che sa che serve che c'ha le... Sto spazzolando. Ci sono le antenne UHF, UHF, però chi se devo dare, non ve ne è. Parabole. Ma c'è? Viene sulle 25 qualcosa, 24 o 25. Luca, tu da Brico mi hai mandato, sì? Come? Da Brico ci vai ogni tanto. Cazzo non ti capisco, sei troppo alto di amplificazione, boh. Oh, ho ammazzato me, cavolo. Ho detto da Brico mi sto più basso. Da Brico ci vai ogni tanto. Sì, spesso e volentieri, dimmi perché. Antenna di per camper. Mai vista l'hai tu? Ma te la per camper? L'antenna che il camper c'ha un'antenna che prendeva una previsione. Ah boh. Cioè, attacchi al camper per guardare la TV, ma penso di sì comunque, penso che ci sia. Io sono cattato, non la vedo qua. Io quattro volte sono andato, non l'ho mai vista. Ma non è, cioè, che c'è? Che conta 24,90? Se mi dice antenne di CB o di UHF, no. Prende antenne per TV, quello sì. Penso di sì, tu ne vada a fare un brinco, lo sai, no? Aspetta un attimo. Ok. Però ho fatto un salto, così lo sai, ma penso di sì. Domani adesso al Trombacco faccio un salto, io vedo un'antenna VHF che è del primo, che costa 13,90. Poi c'è quella VHF, no, UHF, del smart secondo, che costa 15 euro. L'altra volta che sono andato non venire manco a tutti venduti, nella via Lucci. Adesso alzano la testa, guardano in alto a piccarli, se non vedo chiamo che lavoro lì, glielo dico, e poi ci lavorano due mini posti là, ci lavorano, però sono diversi settore. Andi, in Italia ne ha creati, te l'abbiate. Che cosa? L'ha formato il tram. È collegato alla televisione, ne ha tracce tra la piazza a casa tua. Ma smettila, per avvocato il padre ci ti andai a curarmi la tela e buona ricaia. Così le mie disco me la posso detto. Cazzo, invece di ammissione ti devi fare a un fresco la pensione. Adesso con calma, se non piove, è bene se si abbia il culo. Se non piove di piazza ho tutto il video di sorveglianza e poi lo vedo anche col telefonino. È prima città che non poteva. Intanto devo mettere uno dentro casa e tre telecamere fuori. Quindi me le sistemate. Andrà bene. Se viene danneggiata quella di fuori, quella di dentro funzionerà sempre. Quindi, perché la metto un bel distante e quindi vedo che se io uno entra ma non entra no, conta niente, meno quattro d'ora perché a me. Allora intendi due colpi di fucile, intende? Guarda che se non entra. Ma prima la chiama mia, devo la moletta di ferro, a chi la chiama di ferro, a poi. Io sono un paciente ma non gli niente in casa mia, perché tra l'altro non le lascio i cani soli. Ho sempre gente, capito? Ma la vita sorveglianza la voglio mettere per tanti motivi. Così, quando sono fuori come casa mia, allora te la leggo. Certo. Certo, fai bene, fai. Ce l'ho con le quattro telecamere. Come me la piazzo. Ne ho piazzato una al negozio, cazzo un po' si vede bene. Perfetta, bella gara. Tutto l'impianto l'ho giocato. È fatto bene. Ma impiattatela perché serve. Cioè. Ci sei pura, cioè magari se non puoi neanche, magari qualcuno ci passa. Cioè, c'è sempre qualcuno lì che se mi dica che cosa di strano. Cioè magari c'è il numero del vicino, va, che c'è gente. Ma non penso, in chi non metterà nessuno. No, ma ripeto, c'ho gente a casa, perché io i cani soli non le lascio, non le posso lasciare nessuno, quindi che le metto a mangiare, dorme qua e trafitto, non c'è problema. Ho già pensato da tempo, glielo ho chiesto, sì, non ci sono problemi, quindi andrà bene. Per carità, ci ho fatto, ma noi, non mi dire il nome a tutti noi, avevo fame, mi ci ho fatto due bucatini. Ma io lo so che tu non mangi il budino. Il budino? Se mangi il budino io cazzo mangio più in terra. No, va bene così, comunque, ci vuole intanto un po' di pasta, va, se fa vita per la seguita. Luca, Ovi! Beh, il caffè, fa certo lo stai. Caffè? E adesso qua che non li bevo caffè? Non è bello io, no? Non ho smesso di fumare anche. Sono 12 anni che non fumo, no. Io bevo caffè e latte, stop, solo ginseng. Io pensavo che anche tu, c'è il Marcolino che a tutte le ore si fa il caffè. Da mangiare. Mi sto facendo il caffè, buonasera a tutti. No, io non li apprendo, no. E poi non mi fa di il contrario, per carità, no. Buonasera, chi è entrato avanti? Buonasera a tutti, mi sto facendo il caffè adesso, Torì. Però del caffè in alto, visti gli sviluppi. Ma io me immaginavo che tu eri in ascolto, stai facendo il caffè. E quindi sono un telepatico, praticamente, ho detto, Marcolino l'ho nominato e decido. A tutte le ore, a tutta birra. Buonasera a tutti di nuovo, dai. Sì, io praticamente me lo faccio decaffeinato perché il cuore è diventato un po' ballerino. Ieri sera era tipo extrasistole, come se fosse stanco, come se fosse un po' aritmico. Ed era sul chi va là. E quindi è meglio limitare tutta la caffeina, la roba l'onfia. Bene, e quindi procedo, devo buttare anche la differenziata, quindi sono entrato a salutare giusto perché era accesa la radio, mi sono sentito a parlare di caffè e sono entrato a pizzula. Riprendi, beh, bombolo. Ma il padre era morto di cuore, io mi chiedo come abbia resistito il figlio. Guarda che ci siamo andati vicini, mi con Piero, certe volte. Lo so, quando si sgolava entrava anche la mamma che si asciugava, che era il mio casino. E quando Piero si è per cosa la mamma, lei si è zitta, si rifiuta suo figlio, se no vengo lì, gli scende la mutante dal trascuro. Quando gli diceva, cioè, vai brutto figlio bastardo mio. Ma quando è entrato, non so se era il fratello che era a Roma, vengo lì, ti tiro quattro sgamassoni, però l'ha fatta a me. Il fratello, no, del fratello non lo sapevo, io, vabbè, comunque c'era più tutto, più affluenza, più bisticcia anche, però era più bello da sentire. Vediamo se hai ripreso Emanuele, dai, io devo staccare, per forza poi c'ho il film pronto per stasera. Riprendi Emanuele se ci sei. Sta aggiornando. Luca, riprendi. Tanto ancora non è orario di fargli l'insulina a mamma, cioè, non ce l'abbia alta. Siamo tutti di balle. Non vuole capire ancora, tanto non gliene frega niente. Luca. L'insulina quando la fai, la glicemia è smisura e gliela dopo due ore, non subito. No, allora lì ha mangiato, e a me mi ha detto di fare così, lo so, io sono già due anni che gliele faccio, non sono... Com'è l'esperienza, ce l'ho poi leggendo da una parte all'altra, io non so come devo fare. Praticamente lì ha cenato con un po' di latte, io gli misuro la glicemia, la devo segnare e io dopo due ore non gliela posso segnare, non gliela posso misurare, Tony. Non ti vuoi misurare la vita, mi devi uscire da base misurare la vita. Adesso vediamo quanto ce l'ha, in base a quanto ce l'ha ti faccio la puntura, no? Di solito lei ne fa 20 la notte, perché la mattina lì prende la pastiglietta che gli fa colazione, pranzo e cena, però purtroppo non la copre più perché sta mangiando un po' per i cavoli suoi, capito? E niente, adesso vediamo, va. Però io ho chiamato e gli ha detto l'assistente di Fancillo, che è quello come si chiama? Il medico di mamma, il diabetologo di mamma. E gli ha detto al telefono, gli ha messo la voce, il signore lì sta ammazzato con le mani sue. E se no chi è Fancillo? Ma io sono in mezzo lo stesso, quindi Luca te lo so già per quello. Io ho mangiato adesso fra due ore, misuro la glicemia, poi mi faccio anche io l'insulina, due giornalità e basta, capito? Io prendo una pastiglia la mattina, la metformina, giù di 500 e faccio colazione. Poi prendo una prima di pranzo e una prima di cena. Poi dopo due ore e mezza, anche tre ore, quando è coricare mi faccio l'insulina. Non basta, finito. E quindi niente, mi misuro la glicemia sempre dopo due ore, è inutile la misuro prima, capito? Potrei anche misurarla, ma tu la potresti misurare lo stesso, domani se la metta e ora ti metto una punturina piccolina, metti la secchietta, una goccia di sangue a posto e vedi a quanto ce l'ha. Eia, questo va, allora così te la preparo, riprendi anche. Scappa. Così è, pure mia suocera era così. Doveva farle l'insulina e va a fare. Purtroppo a me è venuto il diabete dopo gli anni 60. Quindi mi ha detto a studiare, mi ha detto, ma stava a casa mia, non ce l'ha avuto mai nessuno. No, questo è un diabete normale che viene dopo gli anni 60. Andare, non è a tutti, ma beh, mi sono meravigliato quando ho ricordato per il corso studiare, mi è giunto proprio lui. Fancillo, mi ha chiamato da parte e me l'ha detto. E cosa ne esagio? E quindi sono più di 5 anni che sono venuto con un cazzo di pastiglie di insulina. Ma mi ha detto prima, io ti tolgo le pastiglie di insulina se tu mangi regolato e segui la dieta. Ho detto, a me mi piace mangiare, e allora ci sono le pastiglie. Sì, ci vede il sacco, vado in piscina. Ciao Antonio. E ciao Antonino, ci sentiamo, dai, che mi guarda un po' di televisione pure. Chiudi il sacco, questo non l'ho capito, ma lo è. Vai in piscina. Vai in piscina, ma a pisciare. In piscina del rito. Rimani qua, cosa ci fai? Cosa guarda la televisione? A me da notte si musi. No, c'è su Vesi, c'è un bel su. Vabbè, dai, vai, dai, ci sentiamo. No, domani mattina, neanche io vado a lavorare domani mattina. Va bene, ci sentiamo, stammi bene, ciao Manuel. Avanti, avanti, avanti, a colore, a fare il caffè, allora, altro tempo per girare per te. Mi raccomando, la pasta a forno nel Trullio. Ehi, già lo sai, domenica. Ehi, la domenica già ce la battemmo, dai. Beh, voglio vedermi. Appa. Ok, Manuel, dai. Ci sentiamo, se non rimane più qua ci sentiamo alle prossimine. No, tranquillo, dai, buonanotte a tutti, ciao. Ciao, ciao, avanti Luca, allora Luca si è spostato a fare cose, veglia. Antonio, però la faccio sempre fresca la pasta al forno. Anni fa è pasta al forno, se te la metti, te la fai, te la metti in freezer, è vero? Siccome ne ho fatto un po', 5 vaschette. Ciccia, e mangi che un dio, troppo buono. No, io la faccio e magari la mangio il giorno stesso o la faccio altre, la facevo io domani, la faccio così. Allora, sappi una cosa Antonio, che quando fa la pasta forno c'è un bel po' di lavoro, uno a fare il suo. E preparare il prosciutto, e preparare la besciamella, e preparare la fontina. Non è come fare tu la pasta asciutta, fai il sugo, sbatti dentro e mangi, no. Siccome c'è molto lavoro, io ho fatto un bel tegamone di sugo con la macinata, quindi mi sono comprato un bel po' di vaschette, e quella che c'è in più me la metto in frizza, e così ho fatto. Io compro quelle vaschette in alluminio, che poi c'è anche il tappo, capito? Sì, no, anche io faccio così, lo faccio così lo stesso. C'è un bel po' di lavoro da fare, capo, ogni guru prende la pasta al forno. Quello lo so pure io. No, io la faccio così, faccio il momento. Me la mangio. Ma tu usi le lasagne precotte? Ma che lasagne precotte? Le lasagne fresche uso. Quelle che vedi all'aerospin come faccio io. Eia, molte volte lo sai chi dove le compro? Boh, mi sembrano migliori, le compro all'MD, le compro. Quelle trafilate al brodo, sono buonissime. Boh, io ne ho due pacchi intieri qua, tu per la giovigliata, ragazzi. Vabbè, non sapevo che ogni pacco mi facesse tante tagliette. Sì. Quindi sì, ogni foglio di quella pasta lì fresca, quanta è la mia teglia? Sono le teglie quelle più piccole, però io siccome prendo sempre quelle buone, quelle cookie extra, o prendo le altre di un altro tipo che sono sempre, prendo quelle molto robuste e prendo, a chi si conduca a teglie in compareggi si sciogliene. Se ne è rotta una, dal giorno non ho più comprato teglie di quelle economiche, ho sempre comprato quelle belle toste. Ma io l'ho prese lì alla Comadex, le ho prese lì, sono buone, grazie a Dio. Già due teglie me ne sono fatte fuori e messe in forma, grazie a Dio, sono abbastanza rigide. Chiappa, quelle di Rospin non ne voglio manco vedere, non manco un fiaco, perché mi si sono rotte. Cioè mi si è rotta una, mi si è rotta, l'altro giorno mi sono incazzato, ho detto boh, mai più, spenderò anche 2-3 euro in più, cioè 2-3 euro, 4 euro per comprare, non me ne appunti nulla, però so che non mi ci faccio. Ecco, no io... che non ci provo neanche andare, perché da quando ho chiuso Auchan, per carità, è tutto più caro e non mi piace più, ha chiuso un bel pezzo, da Auchan trovavo tutto, da A alla Z, anche l'olio per la macchina, le gomme, le batterie, di tutto c'è Paolo, televisore, lavatrice, ma è no che è un casino, non mi piace. Pure lo vendono l'olio per la macchina anche loro, cioè io mi ricordo anche in via Gracci che ce la vendono. Sì, ma ormai come usciamo, che ti vendeva anche tecci cristalli, tutti i prodotti per la macchina ce l'aveva, tutto, va bene, è enorme raga, Hitler è tagliato mezzo bizzo, boh, chissà perché, chissà cosa volevano fare lì, non lo so. Però tutti quanti i box che ci sono è sempre di Auchan, quelli sono tenuti a Auchan, li ha venduto solo sul mercato, un pezzo. Chissà che imbarazzosi, ma non andava bene come in città, Sì, ho fatto un bel po' di soldi da quando era città mercato, è una multinazionale, quindi si è fatto un bel dinero, mi dice, beh signori, vendiamo tutto, tutte e voi tutte le Auchan d'Italia, me. Non è solo dita, me. Pure lo so, però, dalla Conad, non è il massimo, prima quando era Auchan funzionava tutto più bene, e se si è liberato anche dei dipendenti, non penso che l'abbiano assorbiti quelle che c'erano. Eh sì, se li hanno assorbiti, caro Antonio, perché io conosco delle amiche mie che lavorano lì, alla cassa, e ci sono sempre. No, il contratto era quello, tenersi anche il personale. Ma non tutto, penso, Sì, certo, un po' sì, ma non tutto, mi avevano detto a me. Ti ha detto male, perché a Don Ruio, che c'è in Mavita, quando c'era città mercato, poi è cambiato Auchan, adesso si chiama Spazio, Conad, c'è sempre lui. E mi ha detto, no, non ho licenziato nessuno. Quindi, qualche d'una forse l'avrà acquistato come commessa, però dice, neanche io ero uscito. Meno male, va, una buona notizia, meno quella. Ma è giusto così, dai. Allora, noi siamo oggi solamente 190 dipendenti, ne avevamo 230 prima, poi chi è andato a pensione, che è muscio, che è stato licenziato, bla bla bla. Un domani dovesse cambiare nome e vendersi la società, a noi non ci mandano via, ci tengono sempre a noi la provincia, capito? Noi siamo partecipati alla provincia, perché assumere nuove persone è un casino, come mai il lavoro? Male, perché noi conosciamo le scuole come le nostre tasche, siamo 23 anni che ci lavoriamo, prendi persone nuove non sa più dove raccapezzarsi, devi chiedere al bidello, dove il quadro, dove quella, insomma qualsiasi cosa dobbiamo fare, dobbiamo chiedere, perdono tempo, noi invece lo entriamo, direttamente salutiamo, noi andiamo subito al posto di lavoro, sappiamo già cosa dobbiamo fare, capito? Quindi noi siamo la nostra società, diciamo, in tutta la provincia di Sassari, io penso anche la Sardegna, io penso come la nostra non ce n'è. Però prima o poi i nuovi giovani le dovranno prendere, il nuovo personale. Cosa fa? Cioè se andate in pensione voi, adesso quanti siete di quella età? Non lo so, tra un po' ci vai tu, magari tra un po' ce ne va un altro. Resta scoperti alcuni posti e bisogna che li prendano pure il personale. Siccome lo sanno già, e infatti il direttore a me ancora è un casino, ti dà dei figli in pensione, cioè ne hanno già su due, pensa un po', sempre il concorso devono fare se non possono entrare. Meno male, sì, meno male che li hanno assunti, perché già un bel travaglio, più se non c'è cambio di generazione, addio. Da noi fai una prova di 45 giorni e contratto a tempo indeterminato, e si è a posto. Io sono già 23 anni, io l'altro mese faccio 23 anni, giusti. Papà, e prima che lavori facevi? Prima di poi non ci ho pensato. Ah, sì. Adesso al petrolchimico, no? 10 anni me la sono fatta anche là. Voglio mia zia, ma zia non viene in pullman, ma che voce spara in macchina via. Mamma mia, mi avviaggio ogni sorrugo. No, ti dirò proprio lì, puzza non c'è mai stata, la verità. Non sei una petrochimica, sei a Fiume Santo, sei molto distante. Ma dove è la centrale? Cappa, dove sono le unico, quei palianti alti con tante... No, quello ore, nulla. C'è un primo secondo gruppo che è quello 6.400 operai. Vai tu. Noi buccia di giocano. Ehi, tu ma tutte le parti veniva, tutti i paesi. Toro Toro Serghero, Cate Sardo. C'era addirittura uno che veniva, presso presso diceva la macchina sua fino a un certo punto, lui veniva da la patata, fate il vuoto. Sono stanco, se mi faccio quest'ernia, ma sto facendo uno per me stesso perché non ce la faccio più, che lavoro male, sto lavorando, e due perché quando vado in ferie voglio stare tranquillo, sereno e farmi belle ricche passeggiate, e poi molti lavori a conto mio, perché adesso non ci riesco a stare in piedi. Glicemia. Non ho capito. Vuoi sapere quanto è la glicemia? Eia. Sei curioso? Sì, no, sei la tua prima, sì. 433. Mica un belli. Ma cosa che posso fare? Ma scusa, allora, cosa che posso fare se non puoi in ghetta a parte dei cabusoli? Cosa posso? La mazza. Ma scusa, sta mangiando dolci? Da subito se mangi niente, non lo so più cosa sta mangiando. 433. Ci sei ciò che gli ha detto quella là, che si sta ammazzando con le mani sue. Aspetta un attimo, mi metto il pigiama, dai. Ma ascolta, tu sei figlio, cazzo, apri il frigo, apri quello. Se vedi roba loppia, o grassa, o dolci, buttagli via, non gliene fa trovare, devi mangiare regolare. E poi anche a un certo età, tua madre, ma stiamo scherzando. Allora, discorso è che siamo in due qua, io non ci sono durante il giorno, io i miei non c'ero. C'è l'altra persona che c'è qua, io non vado d'accordo. Non dipende da me, capito? Io su cosa dito lì. Io il mio dovere l'ho fatto, di farla guarire, stava bene, tutto quanto a posto. Si sta pregando i coglioni, altro non so cosa fare. Guarda, adesso me la misuro io, mi cambio l'ago, un pugilito e me la misuro. E io dico quanto ce l'ho. Io ho mangiato delle quante devo fare circa, quindi. Ma che dici diabetico tu? Sì, io ho il diabete degli anni 60. Quello no, di quanti anni ce l'hai? Il diabete degli anni 60. Vabbè, quanti anni sei diabetico? Cosa? Quanti anni sei diabetico? Da quando ho ricoverato per il cuore, da lì me l'ho scoperto, 2015. E boh, quanti anni sono? 5 anni e a aprile faccio 6 anni. Mamma, cioè, no, allora, 1, 2... Cioè, 3 anni, mamma, 4 anni, boh. Beh, allora, aspetta che cambio l'ago. Io me la misuro che 2-3 volte al giorno, ogni tanto. Allora, qua è pronto. Ok, allora. Lascio la carico. Colpettino. Ecco qua. Metto questo. Ecco qua. 5, 4, 3, 2, 1. No, addirittura ce l'ho. 138. Se tu mi va bene, non è alta, dai. Va bene, alla fine se è diabetico va più che bene. Cosa hai mangiato? Un po' di bucatini. Cazzo, se il confronto va benissimo, ma non 400, ti cusento, cioè. No, mai avuta così, mai. Perché, se sa, cioè, allora, una persona che non gliene frega niente mangia quello che vuole, come un drogato, uno che non può bere, beffa, è quello, prendiamo un esempio. Io lo stesso, non è che non posso bere, non sono un bevitore, bevo poco, però ultimamente ho questi dolori dovuti ai calcoli a cistifede, capito? E sto bevendo quasi poco, un buccettino di sfumante così, ma non me la butti nuda, perché so tanto che mi fa male. E così deve fare lì, purtroppo lì non gliene frega niente e mangia quello che vuole. Ma è sbagliato, non si può mangiare quello che si vuole, capito? Io la pasta la mangio una volta alla settimana, non è che la mangio spesso, massimo 2 volte, ma è poco. Quel tanto lì è buono. Poi roba grassa non ne mangio. Ho eliminato il pane del tutto, non mangio qualche fetta biscottata integrale che produce, non neanche ne ho toccato. E avevo un cacomena, ma sono mangiato, se non mangio solo una mela io la sera. A volte mi corico con una mela in corpo e basta, non aiutare mai neanche, ho capito. E così andava, vedi, mangiare a mela e buona, la mela, cioè tutto il resto di banane, arance, tutto, cacchimela, tutto, mandarini, nulla, solo mela gli altri di mangiare e basta. Anche non una metà. Guarda, io sono... da quando ho scoperto il diabete non mangio più banane. Contiene potassio. E mi sono limitato veramente, Luca, quindi mi voglio bene, voglio vivere, perché il diabete è la malattia più bastarda che c'è al mondo. È un attimo, capito? Non è che senti dolore cosa. Ma quattro zette è un bel, ma buffonete, no, per carità. I dolci non so, mi piacciono, niente. Qualche volta, ti giuro, un pezzettino di cioccolato con la fondente, ma un pezzettino per gustare e basta. Ho rimediato molta roba, la mattina faccio colazione con latte praticamente scremato e due fette biscottate da quelle che integrali. Proprio limitato, pani non ne mangio più, le 11, sono già da quando mi hanno scoperto il diabete, ripeto, sta andando bene, tranquillo. Se non fai così è un casino. Lo so, va, c'ho esattamente le balle girate, ma veramente mi gira la critica, veramente va. Purtroppo siamo in due, io quando ci sono so quello che devo fare, purtroppo quello non sa quello che deve fare e non so cosa fa. Già poi ha problemi al cuore, mamma, capite? Cioè, mamma c'ha il pacemaker al cuore. Io prendo le pastiglie al cuore, sono scompenso cardiaco, quindi sono già quasi 6 anni che prendo pastiglie, grazie a Dio ho reagito bene con le pastiglie, non mi hanno messo niente. E ripeto, bisogna stare attenti, ma domani è autosufficiente, sì? Sì, diciamo che c'è obesa, è obesa un bel, solo che è un casino, perché lì mangia e si corica, mangia e si corica, quella è la vita sua, mangia e si corica, tu la c'è per sempre bucata. Quella simila, fa male, deve muoversi, ci vuole qualcuno che la segue, Luca, per forza. Tony, lo sapevo, se non le subi di casa la seguo io, boh, la cosa, la mia vita non la devo fare, no. Cioè, alla fine anche io non devo fare la mia vita, L'ho sempre seguita io, l'ho curata io, perché facevo la minestrone, sapevo come gestire la, diciamo, la dieta, ecco. Ma c'è buona persona che... non è sorelle tu, bufaletti? No. Non dice figlio unico, no, cioè in senso unico no, perché c'è l'altro tuo fratello che conosco io. Siete solo maschi? Tutti maschi, 5. Cazzo, visto, ci vogliamo una femmina, raga. È un maschio più piccolo di te, non ce l'hai che è libero e rimane in casa, no? È più piccolo sono io. Che casino. Oh. È una badante, lo si può prendere. Pagata con la badante. Anche quello è vero, pagata al comune. Il comune ti dà la badante solo per, come si dice, pagata dal comune solo per un paio d'ore, mica te la dà fissa. E da dei bassi intelligenti devo farmi su di viva, Tony. Ispettore elicottero, in base al sito Wikipedia, nel 1920. Ragazzi, chiude l'elicottero, guarda, la mia cosa che mi ha detto, mi sono preso una bustina, riprendi Antonio. Cappa. Andai così è un casino. Meno male che ci sia un po' di tu che fai bene, se no. No, è un casino vero, Caspita. Vabbè, un casino sì. E a tu? Abbiamo fatto colpi che poco perché stiamo parlando di cose serie, capito? E queste cose dispiacciono, c'è la mamma che ha la glicemia è alta, c'è poco da scherzare. Ma se lui non gliele compra queste cose, la mamma non esce. Cara che vi ricompareggia di queste cose, cioè. Lui ci sta andando, ha detto. Giustamente non può rimanere fisso, c'è anche lui la sua vita, no? Beh, certo, certo. Certo, certo che sì. Cosa vuoi fare? Purtroppo è così, È beato lui che ce l'ha la mamma, io non ce l'ho più da 3 anni. La mia pure se n'è andata. Quasi 95 anni. Vabbè. Lo so. La mia quanti anni aveva? succedono. Purtroppo sì, aspetta, mi è arrivato un messaggio e devo scrivere. Per carità, va. Io ogni tanto racconto la bici mia, si sa mai, va bene, le mangi dolci, non è che fa male. Diciamo, giusto, là, per esagerare, perché se esageri poi è peggio, mi prende la cosa e posso, ma fino a... aspetta, finito. Fino ad essere una regolata su ogni cosa, nel bere, nel fumare, vabbè non fumo, comunque. La cosa bisogna stare attenti, chi avesse la malattia più merdosa che gli sta al mondo, che fa un bel danno. Ma sai che c'è il rischio anche che ti... Ma sai cosa, vabbè un amico, le stavo tagliando la gara, il piede mi, e stavo andando in cancrena, per il diabete. Cavolo. È un casino comunque. Troppo casino. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Si è abbassato il segnale? Si... Sta guardando un video e adesso il segnale com'è? Ah, adesso è a posto. E adesso vado a freddare un po', era troppo caldo. Sto guardando un video che mi hanno mandato, un amico mio. Ah, ecco. No, mi sono spaventato, ho detto, cavolo, questo abbassamento di segnale, indietro, c'è di tutto, cosa sta succedendo? È un video in campagna. Che trovi se cuccioli? Se riconosci il tuo, i tuoi, e beh, questo mi aveva dato i cani e me mi aveva dato. Vedi che bellini che sono. Mila, eccola via, che belluccia. Mila nera, vedi? Mi ha mandato il video, c'ha il video addirittura quando ero piccolo, piccolo di miega. Piccolino. Anche io c'avevo. Anni, qualche anno fa c'avevo i gatti, c'avevo. Guarda, era sicuro di essere gatti. Aspetta che scrivo, a Salvatore, questo è stato Marino a Palma, un agricolo, non so, è H1.95, questo signor Pietro di Giustiano. Aspetta che scrivo, sì, l'ho riconosciuti. Se mi sarebbe piaciuto avere un cagnetto pure a me, ma non riuscirei a tenerlo, perché io esco la sera, cioè ci lo mandano per la sera. Poi non possiamo perché non abbiamo il posto. Ecco fatto. Ma strano ancora, mi sta chiamando nessuno presto ancora. Come? Sta chiamando nessuno presto? Di solito mi chiama l'amica mia, a quest'ora dove lavora notte, ma non mi ha ancora chiamato. Magari chi sa del caffè? No, non la conosci tu questa qua. La conosce, non li conosco. No, neanche del caffè. Un'altra cosa. Meglio così stare in contatto. Gappa. Vestito di casa con le pantofole, non sono uscito per niente, tanto ho tutto, cosa esce a fare? Poi zona rossa, oggi domenica, domani è andato via, mi sono preparato con calma oggi la valigia, quello che mi devo mettere, la cosa più importante, poi niente, mi devo fare le fotocopie, però c'è il tempo, me la posso fare anche domani, per quando esco mi copro la cartuccia dell'inchiostro, perché ho finito la cartuccia stampante. E niente, quindi mi sono pulito la casa, ho tutto pulito, lavato, non ho neanche niente. E e si rientra al lavoro. Aspetta due minuti che faccio una chiamata, la buonanotte, se no finché mi fa squillare quando si va a vedere, si fa un casino sul telefono. Aspetta due minuti. Vai, vai. Eccomi. Aspetta, ho toccato una cosa. Hai toccato una cosa? Ho toccato l'FM, ho toccato. Capita. Oia, vabbè, dai, è fatta così, anche oggi è andata, dai. Insomma, queste ferie da 24 a oggi sono volate, dai. E invece quando si inghiciano non vorranno mai, per carità. Ma le ho passate male, perché? Anche se sono sempre in casa, sempre per neva. Poi chi ci ha fatto salvare l'Italia e l'osso, la mazza gli ripare a Buraetto. Non sai dove andare, è un casino, l'autocertificazione, piove, piove, smette, e il sensore pur piove di nuovo. Ma che si rabbia le luci, lei va a cantare sul cielo. Ma appunto, non si ricava a piedi, non si ricava. Sempre prendeva, sempre prendeva. E più che altro io sto sempre qua, mi sto, cioè giù, diceva, ma giù c'è più freddo, qua c'è più caldo. Sai che il caldo va in alto, io me ne accorgo quando entro nelle scuole, devo cambiare qualche lampada, apro il plafoniere, metto la scala e vedo un cazzo che si usa perché il caldo è tutto su. Scappa, no, qua cavolo si sta da Dio, si sta proprio da Dio e va bene. Giosu è freddo e infatti il caldo se ne va sopra. Se io qua adesso accendo la cucina, io so che mi ordino un altro video sorveglianza, anche due o tre me le conservo, o chi vuole un video sorveglianza a qualche villa non si paga a me, è un piazzo mio, piazza a Dio, e uno ce l'ho già, capito, io lo pago a prezzo e poi ne vedo un po' di più, ciao socia. E vabbè, a parte ti conosce oramai. Non so dove lo pigli tu, ma ti conosci. Sì, da fuori la copro io. Faccio vedere. Nulla. Niente. Ecco qui. Abbiamo anche la polizia, hai visto? Sì. E Baufeng. È carino, sono portati lì in porticolie con Smith e tutto, eh. Da Budoro, eh. Ehi, sentitemi. Pio. Me comportate dentro casa con l'antenino piccolino, che sono il tizzetto. Se accendo l'altro, il tizzetto te lo terrà fuori. Ma con l'altro il tizzetto anche io, bene. Qua è arrivo più forte. Capo, che ti sento, chi sei? Luca. Ah, Luca, sì. Ecco, vabbè, spegniamo. Ecco. Eccomi. Luca. Sì, Luca, magari sto facendo roba. Ne ho due, uno che mi hanno fatto e uno che ce lo dà sempre, dai. Capo. Aspetta. Giorgio. Ma il tuo messaggio, Gianni, doppio rum, l'hai scritto entra sul 10. Non siamo già in occhi. Un messaggio mi ha mandato tramite WhatsApp. Ti ha mandato il messaggio. Della buonanotte, ho scritto entra sul 10. Ah. Grazie, mi hai dato un mito. No. Gianni, è acceso. Tutto taccio. Gappa. Acceso il coso, l'apparecchio con l'apparecchio normale. Adesso devo mandare 30 messaggi che hai più tempo tu. Hai 30 messaggi? A 55 me ne fa mandare, raga, della buonanotte. Niente, ho scritto, sto guardando un film con la mia compagna. Andà bene, buon per te. Allora già andà bene, dai. E ho scritto, buon divertimento, ok, ciao ciao. Scappa. Quando c'è la cosa a casa, di solito non entra quasi mai. Difficile che entra quando c'è la compagna a casa. Oh, vabbè. Ma io però ce l'avevo qua in casa, entravo lo stesso, andavo chi un pochettino di meno, però entra. Scappa, non lo so. Però mi sa che è difficile che entri, capito? Perché l'ho notato questa cosa qua. Quando da solo già entra, si trattiene qua. Ma oggi non benissimo proprio, eh. Ah, oggi è una giornata così, una giornata strana. E oggi ci siamo fatto una bella chiacchierata con Giulio, con Roberto. Spesso scrivendo a mia sorella, raga. Figlia. Chi sono questi cuccia messi della sorella? E ho scritto, se vuoi bene, sono i miei, se vuoi bene, sono quando ero piccolini. Piccolini loro. E non li avviti da piccoli poi. Già si ricorda, però adesso vedere un video così, non si ricordava. Io gli ho scritto, guarda bene che... Vedi anche una... piccolina, bellucci, mi ha scritto. Poi aspetta, continuo a mandare il messaggio da buona nocce. Allora, dunque, ho mandato 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, di più non me ne fa mandare, e invio. E così via dicendo, a casa 30. È un piano di messaggi. Niente, oggi non c'è nulla. Capa. Ma tu lo conoscevi, quello che lavora con me, tu lo conosci, che lavorava nel coso, nel fornitore in corso 30. Sempre col lavoro tuo? E lavora con me. Gli occhiali c'ha? No. Aveva il negozio piccolino che vedeva le bombole che dava via Muraglia e via Costa d'Età. Oh, tu si intende a Gianni Macciocco si intende. Non so come si chiama, tu pensi pure quello sono Medani, ma con Nambo non conosci tu. Cappa, no, non è lui, no. Te lo ricordi, c'era il fornitore, corso 30. Cioè, lavorava lì da Santoro. Già, sì, ma vedete una lì. Un po' di anni. E lavora con me. E a me si ricorda di me, boh. E che ce ne ha messa? Già ti conosce. Ma allora da chi non ci parla? Anni fa parlava, molti, molti, molti, molti anni fa. Quasi finito. Leopardo si chiamava. E poi con il difensore era fino a un punto messo male, che poi l'hanno chiuso del tutto. Sì, ma travagliavano bene gli anni loro, facevano un sacco di soldi. Poi si è trasferito lì a Santa Maria, si è trasferito, c'era il bar lì. Cazzo. vabbè, altri tempi. Oh, mio collega ha detto ciao, domani non c'è, dietro giovedì, ammazza. Non c'è? Onna ce l'hai fino a giovedì, mi sa che lì, se ricordo bene, che mi ha mandato il messaggio, che era un po' Giuseppe. Allora, dove sei? Ecco Giuseppe. Ciao, io rientro giovedì, si è preso lui di partire così, quindi. Beh, vabbè. Ok, va bene, Giuseppe l'ha scritto, non andava. Non le bastava nel dirigere, si è fatto. Sempre in fede, non le piante travagliate. Che c'è niente così. Poi quando rientra dice, sequestrato qua, allora facciamo un po' di. Ma no, io mi sono sempre fatto lo travaglio che era via di fa. E poi ferie, andare in ferie sempre ad agosto. Non adesso. Sempre fatto il lavoro che dovevo fare però. Ma va si travaglia, non puoi fare ferie. Vabbè. Allora. Ho messo il cane mio su WhatsApp, che trovo? Va bene, bene, bene. Beh, oh, Antonio, io mi sdraio, mi guardo un po' il TV e domani ce l'ho tutto quanto io a travagliare. Domani sono a Sassari, vabbè, spero che mi dia un altro operaio che se non siamo molto male. Ok, va bene. Allora che manca Michele, allora sì che ce l'ho, se non sono rasura donna, sono abituato a trovare rasura, io ti ho trovato l'aria come quasi mai, beh, ne ha gana di trovare. Va bene, tu dai, stammi bene, ciao Tony, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao, ciao ciao, ciao Tony a tutti, ciao ciao. Ciao ciao, mi trovo l'ascoltore, ciao. Ciao ciao ciao.